Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16:34, Luca Tremolano al microfono. Il titolo della puntata: Salone fuori salone, arti contemporanea. Per me personalmente un inferno, ma il mio Virgilio è Cristina Tagliabue, che mi condurrà in questi luoghi per me ostici e complicati. La suo filo di lana, il filo diretto sarà la creatività. Proviamo a capire insieme qualche cosa, che cosa sono questi eventi, che cos'è il design, perché tutti ne parlano, magari anche a sproposito. Ma prima ascoltiamo le news. Milano, fuori salone 2010, dal 14 al 19 aprile, presso lo spazio espositivo Zona K in via Spalato 11. Sono queste le coordinate per andare a visitare l'idea di design del giovane duo James Plumb, classe 1980. Le opere e gli oggetti, a metà tra design e arredamento, vogliono dare una nuova identità a tutti quegli oggetti che il tempo ha sfibrato o scartato. Addizionando, restaurando e trovando nuovi usi per oggetti e forme di vita non più desiderabili. Mercati di Traiano, Museo dei Fori Imperiali. Dal 14 aprile al 25 luglio saranno esposte 60 fotografie scattate dal grande maestro William Klein a Roma dal 1956 al 1960. Manifestazioni di piazza, passeggiate ai fori, domeniche a Ostia, scene di vita quotidiana e set di moda. Tutto negli incredibili scenari della città eterna. Una mostra da non perdere e che si può sintetizzare con le parole di Federico Fellini. Roma è un film e Klein lo ha girato. Dopo 21 anni, per la prima volta quest'anno, a condurre la maratona musicale del 1° maggio sarà una donna, l'attrice Sabrina Impacciatore. All'appuntamento di Piazza San Giovanni a Roma prenderanno parte i più grandi musicisti italiani, tra cui Vinicio Capossela, Carmen Consoli, Irene Grandi e Paolo Nutini. Alla kermesse prenderà parte anche un'orchestra di 60 elementi. Il tema del concerto 2010 sarà il colore delle parole e, come ogni anno, l'appuntamento sarà trasmesso in diretta su Rai 3. Allora, torniamo in studio, 16:36, insomma, che ne pensi tu di questi saloni, la creatività, il design, sarà una bolgia da un certo punto di vista? Milano, che cos'è poi il salone? Spieghiamo, è una bolgia di persone che entra in luoghi, vede cose, non le capisce spesso, perché spesso non si capiscono neanche, e torna a casa più ricco che prima, più ricco che mai. Ma più ricco di creatività, io non posso ovviamente essere negativa rispetto al salone del mobile, nel senso che è un appuntamento di quelli cult ed è uno degli appuntamenti più belli di Milano. Poi si può dire: ah sì, mi piace o non mi piace, vado a Ropero oppure no, oppure rimango a Milano a godermi il fuori salone, che è, diciamo, tutto il mondo esterno, tutti gli appuntamenti in che organizzano le aziende di design, le feste, poi c'è la pubblicità, il creativo, esattamente, tutto questo mondo via Tortona, per lo diciamo, perché poi vengono vagonate da Milano per questo, forse uno degli appuntamenti dopo le finali mondiali, finali dopo di calcio, moda, dopo la sfilate, moda, giustamente. Forse sì, gli appuntamenti più importanti di Milano. Peraltro, guarda, ti do questa notizia: ho appena ricevuto l'invito di Lapo Elkan. Attenzione! Che farà un evento anche lui giovedì prossimo. Allora, se c'è l'acqua, vabbè, io non conosco, per cui vado avanti. Appunto, l'avevo detto che era un girone infernale, vedo che sto mantenendo le promesse. Noi siamo qui con Francesco Monico, che è direttore della scuola di media design della NABA. Buongiorno. Buongiorno. Sentiamo una scheda che racconta tutta la tua vita. È un ricercatore che cerca di costruire sistemi di senso e, per farlo, ha messo in piedi la scuola di media design e arti multimediali. I suoi maestri sono Giulio Giorello, Domenico De Masi, Derrick De Kerkov e Roy Ascott. Ha iniziato a lavorare per Rai 3 a 18 anni, ricoprendo mansioni di aiuto regia, autore, direttore di palinsesto e responsabile immagini di rete. Era una Rai colta e mi parlavano di Marshall McLuhan. Io ho iniziato a studiarlo e son finito con una borsa di studio al McLuhan Program in Culture and Technology. Da allora ha iniziato a interessarsi di ecologia dei media, che lo hanno avvicinato al mondo accademico, NABA, Cattedra di Teoria e Metodo dei Mass Media. Francesco è anche giornalista professionista, autore, consulente di innovazione, ma anche esperto di alta formazione artistica e di ricerca. È uno dei fondatori della scuola di media design della NABA. Adesso faccio il professore, il direttore manager di facoltà, il curatore di nuovi saperi, l'imprenditore culturale e l'artista. Sostanzialmente esprimo un'estetica in cui pratica e teoria artistica, esperienza didattica e produzione scientifica si fondono in un unico contesto di ricerca. Francesco si definisce così. E se si definisce così Francesco va benissimo. Allora, il tuo è chiaramente lo sguardo di una persona che insomma è ricercatore, che ha anche fondato Sei Milano, che adesso è dentro la scuola, insomma i creativi li vede da dentro e da fuori. Che cosa servono questi eventi? Servono questo fuori salone? Servono questi momenti o sono solo divertimento? Ma questi momenti secondo me sono molto importanti perché permettono la condivisione di nozioni condivise, nozioni che permettono al giovane di prendere il parametro, il punto a cui vuole arrivare, il punto a cui partire deve arrivare. Bisogna sempre chiedersi se questi momenti poi rappresentano il vero punto di innovazione, nel senso che molte volte, soprattutto quando l'evento diventa così importante, così impegnativo a livello di management, così responsabilizzante a livello di cifre economiche che muove, se poi lì si trova la vera innovazione, quella cioè che caratterizza il contemporaneo, seppure si trova qualcosa che è già diventato un depositato politico, un depositato economico-finanziario. Quindi il problema che noi abbiamo è che, ad esempio, in queste giovani accademie che ci sono, che sono delle realtà interessanti, la NABA dove insegno io, è di far andare i ragazzi dove c'è la vera innovazione. E questo è un problema diffuso a livello di eventi, diffuso a livello anche di, adesso forse non dovrei dirlo qua, ma a livello anche di giornalismo, ovvero chi sono i veri creativi del contemporaneo, dove sono le mode che stanno realmente cambiando. Cioè sostanzialmente gli date un biglietto di uscita dall'Italia, no? Ahimè, ecco, questo forse non bisognerebbe dirlo, però diciamo che bisogna cambiare forse il punto di vista. No, perché esatto, io tra l'altro sono critico su questo aspetto, nel senso che poi Cristina racconta da quanti anni racconti la creatività in Italia? Ormai siamo a 5. 5 anni, sì. Per cui qualche cosa abbiamo su Nova raccontato. Detto questo, c'è un po' di provincialismo nel vedere all'estero, spesso accade Barcellona, quando non era Barcellona era Berlino. Tokyo, quando non era Tokyo era Berlino, il design è sempre fuori, sempre lontano da noi, è così? Diciamo che la nuova società dell'informazione ha creato quello che è il paradigma del glocale, no? Prima nella scheda si diceva che ho studiato con De Masi, ma lo insegnava quindi 20 anni fa. Il glocale è quel concetto che ormai il mondo è connesso, il villaggio è globale, come diceva McLuhan, noi siamo contemporaneamente a Milano, a New York e a Sydney. Io arrivo qui, ho appena fatto una riunione con un fondatore di un'università, cioè che sta fondandola adesso a Brisbane, in Australia, sta facendo un grosso progetto e viene a parlare da noi per capire che tipo di pedagogia fare. E noi andiamo da loro, e noi prendiamo da loro. Quindi ormai non si può più parlare, secondo me, di provincialismo. Cioè Milano è Milano, e New York è Parigi. Il Salone del Mobile è un momento molto importante perché è un momento in cui Milano ridiventa internazionale. Milano è ancora oggi oggettivamente la porta verso l'internazionalità, la città più internazionale che c'è in Italia. Ecco, ma che consigli dai a un ragazzo che ce la vuole fare, vuole diventare designer, vuole lavorare nei media, vuole lavorare in questo territorio complicatissimo, che è quello della complicatissimo perché è molto, molto debole, molto fragile, che è quello della creatività? Guarda, io quando a un certo punto con Olivero Toscani sono andato a Fabbrica, c'era una scritta che diceva non fatevi rubare i sogni, mi colpì molto, mi piacque molto. Oggi dico ai ragazzi aggiornate i sogni, nel senso che devono vedere le nuove frontiere permesse dall'innovazione, le nuove possibilità. Poi sicuramente bisogna aprirsi a una dimensione internazionale, bisogna pensare all'Europa come un'unica grande nazione, bisogna capire tutte le possibilità che ci dà da un lato l'Italia, dall'altro l'estero, e questo è fondamentale. Ecco Francesco, io ho una domanda, perché vabbè, adesso nella pausa ci hai detto che in realtà Derek de Kerckhove è stato il padrino di tuo figlio, poi adesso citi... Figlia, poi hai citato ovviamente dei guru, dei mostri sacri della creatività italiana, Oliviero Toscani per esempio, appunto De Masi, ma sono sempre gli stessi nomi in Italia, cioè se è vero che da una parte, e a me questo, 5 anni che scrivo, 5 anni che provo a non scrivere di questi mostri sacri, anzi di ribellarmi, loro cosa fanno? Quando ne scrivo male parlano di male di me, famoso... col mio direttore. errore in linea di massima. Oliviero, no? Che si è arrabbiato, esatto. Si è lamentato perché tu, certo, hai scritto male. È così. Vabbè, Oliviero c'ha il suo carattere. Sì, però nel senso non è possibile ribellarsi e poi rimangono sempre loro, sono sempre soltanto loro, fanno creatività davvero? Questo un supporto a Cristina, questo non è solo un tema legato alla creatività, anche alla politica. Sembra che ci sia una generazione che è completamente tagliata fuori. Beh, credo che sia vero questo, nel senso che l'Italia è un po' una gerontocrazia e non dà molto spazio ai giovani, è verissimo. Io la NABA l'ho fatta per questo motivo, sono uscito dalla televisione perché non avevo possibilità in televisione e ho detto: qual è un mercato non presidiato? L'alta formazione artistica, un mercato non presidiato che ha permesso a un allora trentenne di diventare direttore di facoltà, ma io a 30 anni non ho avuto nessuna possibilità di diventare direttore di qualsiasi facoltà in Italia. È stato un ragionamento dove era il presidio del... diciamo di un'Italia che è già stata costruita. Oggi dobbiamo costruire qualcosa di nuovo, speriamo che ce ne diano la possibilità. Le indicazioni non sono rose, mi piace molto la figura di Cristina, il suo blog, quello che lei denuncia è giustissimo, è vero, è verissimo. Non c'è investimento reale sui giovani in Italia, avendo iniziato molto giovane in Rai, molte volte non mi prendevano per un adulto, per un vero regista, ci ho messo tanto. C'è una dimensione sia generazionale sia di abitudine culturale. Nova Lab 24. 16:47, siamo ritornati in diretta, Cristina. Cristina, stavamo facendo questo discorso dei mostri sacri della creatività che sono sempre i soliti nomi, e quindi se usciamo dal mondo della moda, alla fine Oliviero Toscani, no? Nonostante poi Benetton abbia cambiato direttore creativo. Ecco, mi piaceva chiedere a Francesco Monico, che insomma ha girato diversi ambienti e ha veramente avuto delle esperienze in tanti mondi mediatici creativi diversi, se in qualche modo ha intuito in Italia una nuova leva della creatività o delle nuove generazioni, o comunque dove, cioè proprio nel giorno in cui alla fine uno dei writers più famosi è stato incriminato. Bross. Esatto. Dove sono? Dove ma guarda, io qui sono un po' pessimista, nel senso non so se in Italia, cioè in Italia sto notando adesso una nuova leva invece di persone che seguono poi la gerontocrazia. Quello che credo è che bisogna guardare in luoghi, come dico, di questo villaggio globale, quindi New York, la rivista Just a Pose, figure come Aaron Koblin, ricercatore per Google e artista contemporaneamente, a settembre, tutti i settembre, Ars Electronica a Linz, nel 2011 Interaction Symposium Electronic Arts e Biennale di Arte a Istanbul. Voglio dire, un biglietto low cost per Istanbul si può benissimo prendere, andare, idem un biglietto low cost per, no, low cost forse non c'è, ma insomma non costa tanto andare a New York e comunque leggere qua in Italia Just a Pose. Ecco, giriamo la stessa domanda a Silvia Fanti, che ci ascolta in collegamento. Buongiorno. Buongiorno. Curatrice di Performing Art e direttore artistico di Fisco, che non ha nulla a che fare con norme e tributi, ma con il Festival Internazionale sullo Spettacolo Contemporaneo. Allora, Fanti, dove si trovano i creativi? Esiste una classe creativa nuova che sta emergendo? Sì, anche se senz'altro il nuovo per me non è legato solo all'età anagrafica. Sono senz'altro d'accordo sui discorsi fatti sulla internazionalità, sul fatto di non essere ancorati a un quadrato di terra, ma di essere trasversali, di appartenere a delle striature che comunque hanno un ampio raggio. Essere creativo secondo me non è solo una professione, ma è anche proprio un'attitudine di guardare le cose. Occupandomi di linguaggi della contemporaneità, in realtà posso dire che esiste una categoria professionale, ma si tratta essenzialmente di come vengono infilate le esperienze nella vita e nella professione una dietro l'altra, quindi parlerei di visioni. Dal punto di vista della geografia, sulla mia area di intervento, che è quella performativa, posso dire che ad esempio in Europa ci sono delle zone più mosse che altre, Vienna, Bruxelles, Parigi, Berlino sono molto più vitali che, anche forse Lisbona e Porto, molto più vitali che altre situazioni periferiche, però in realtà ecco, gli intrecci, gli spostamenti sono così vari, così molteplici che non posso identificare un unico luogo che dia dei natali a, diciamo, a qualcuno che ha eroicamente la figura del creativo. Parlerei di diffusione alla fine. Silvia, una domanda che non c'entra nulla. Cosa vuol dire color carn che scappa? Color cane che scappa è un modo di dire in colore o di significare un colore che però non è identificabile. Questo è il titolo del Festival sullo spettacolo contemporaneo, questa decima edizione che partirà fra 10 giorni. Il 16 aprile. Nasce da uno scritto di Paolo Nori, che è tra i fondatori del semestrale di letteratura comparata a nulla, La Calappiacani, e in un breve racconto che era quasi un editoriale rispetto alla loro linea di ricerca, appunto parla di questa scia in colore che lascia un cane che appunto risponde istintivamente e non sta alle regole e che comunque ha una sua vitalità, e tra l'altro si riaggancia a un modo dialettale perlomeno di questa regione, insomma, tra Reggio Emilia, Modena, Bologna, poi insomma ci sono anche altre versioni dove pare che si dica hai un abito color cane che scappa, cioè che non si capisce esattamente che cos'è. E, insomma, mi è piaciuto questo motto di indefinitezza che poi è stato articolato nella cura, nella programmazione di questa. Io sapevo che a Firenze i toni sono le tute. Non c'entra ugualmente nulla, però è curioso, nel senso che se tu entri dentro un negozio e dici vorrei un Tony, vuol dire vorrei una tuta. Non è un Tony Manero. Non è un Tony Manero. Ma invece questo è il Festival Fisco, lo volevo ricordare, è a Bologna, perché non so se appunto l'abbiamo detto, mi è scappato, eccetera. 16-24 aprile, organizzato da Xing. Peraltro ne approfitto, perché stiamo parlando di creatività, di cose un po' pazze, perché io avevo letto che Francesco Monico era all'interno della giuria di un premio che si chiamava Milano 3.0. Sì, certo. Come dire, un premio che premiava la creatività non soltanto milanese ma italiana tutta, dei giovani talenti. Quindi mi riallaccio, come dire, al discorso precedente per dire c'era qualche progetto che ti piaceva in particolare? Poi sappiamo che ne hanno vinti 10. È stato un concorso molto ben fatto, ben organizzato, molto ben giudicato. Era mediamente di qualità, non c'era qualcosa che stupiva, testimoniava il lavoro che comunque stanno facendo le varie scuole, i vari istituti che operano con le scuole civiche, le varie accademie a Milano, quindi ottima esperienza. Bene, noi abbiamo finito. Cristina, devi aggiungere qualcosa? Avevo dei progetti preferiti ma non abbiamo tempo, che erano belli tutti. Salutiamo Silvia Fanti che è stata in collegamento con noi, grazie, e grazie, l'appuntamento è domani alle 16.30. domani, arrivederci.